Strade e motori. Strade e motori. Di Massimo Di Scienza. Amici di Radio 24, siamo a metà luglio ed in questo numero di Strade e Motori dedichiamo tanta attenzione a chi sta per mettersi in viaggio per le agognate, attesissime vacanze estive. Vi offriremo un vademecum per una partenza tranquilla ed anche qualche consiglio in caso di inconvenienti. Poi con il direttore di Quattro Ruote ci occuperemo di un mercato d'auto molto particolare, quindi vita e destini del pendolare non soltanto italiano, ma come promesso partiamo dalle vacanze. Alzi la mano chi non ha mai sognato, soprattutto in questo periodo, di partire per una breve o lunga vacanza in camper o con un caravan, magari gran turismo. L'idea di libertà, della natura a portata di mano, un'idea che piace, che continua a conquistare anche in tempo di tecnologia avanzata e di voli low cost. E a volte il sogno può trasformarsi in realtà. Magari qualcuno di voi ci sta pensando in questo momento o si è così appena deciso a regalarsi una vacanza molto particolare. È a voi che ci rivolgiamo, ma non solo, che ci rivolgiamo proprio per affrontare questo argomento, salutando una vera e propria autorità in materia, Beppe Finello, che è direttore della gloriosa rivista, il mensile Caravan e Camper. Direttore, buona domenica, ben trovato. Buona domenica a lei e a tutti i suoi ascoltatori. Direttore, grazie. Da lei vogliamo subito qualche consiglio per un neofita, uno che su un camper magari non c'è mai salito e che ci sta pensando in questi giorni di regalarsi un'avventura, una vacanza così. Ma prima di tutto sappiamo che sono molte le persone che in Italia si vorrebbero avvicinarsi a questo mondo perché lo vedono, perché gliene parlano, perché il vicino di casa, l'amico, oppure lo vedono per strada e vedono che cosa con questo mezzo si può fare. Il consiglio naturalmente, prima di tutto, ci sono i conoscenti, quelli che hanno già provato questo viaggio, le riviste di settore me lo permettono naturalmente, certo, che possono essere delle grandi divulgatrici in tal senso, e le fiere di settore, perché adesso ci sarà a breve appunto la fiera del Salone del Campo di Parma per vedere questo mondo, ma prima di tutto avvicinarsi con lo spirito giusto, personalmente intendo quello, cioè non di pensare al camper come un sostituto, un sostitutivo di una vacanza, che so, in albergo, in pensione. Sono altri modelli di vacanza. Il camper va visto come un oggetto capace di far fare vacanze diverse, completamente diverse da quelle che si sono immaginate fino a questo momento. Per la prima volta è meglio un noleggio, vero? Piuttosto che passare direttamente all'acquisto. Potrebbe essere un'idea, naturalmente, noleggiare un veicolo recreazionale adatto al proprio nucleo familiare, perché poi uno degli sbagli magari si può fare quello di acquistare un veicolo non adatto alla propria famiglia, alle proprie abitudini o al proprio numero di familiari. In questo tutti i noleggiatori sono ben prodigi di consigli in tal senso, quindi questi errori di solito non si fanno. Però noleggiarlo e provare a vedere se la vita del camper, che è piena di soddisfazioni, ma comunque anche naturalmente di cose da fare, di da sistemare, da vivere, è adatta al proprio modo di intendere la vacanza. Ecco, proprio questo volevo chiederle: quali sono gli errori più frequenti che fa un neofita, continuiamo a rivolgerci a loro, nel momento in cui sceglie di noleggiare, acquistare un camper o un caravan? Ma nel viaggio, prima di tutto, un po' mi riallaccio a quello che ho detto prima, sì, cioè l'errore principale probabilmente che uno può fare è quello di intendere il veicolo, prima di tutto intenderlo come un veicolo per raggiungere il punto di vacanza. Io dico sempre, amo dire, che la vacanza in camper inizia nel momento stesso in cui si parte da casa, cioè ci gira la chiave, perché il viaggio in camper è un viaggio che va, sì, naturalmente programmato, si deve raggiungere una meta, ma un viaggio che va inventato giorno per giorno, momento per momento, lasciandosi guidare dalla fantasia. Quindi ecco, l'errore più comune è quello di cercare, l'errore può essere quello di intendere questo tipo di vacanza, come ho detto, come un sostitutivo di altri modelli di vacanza, andare magari negli stessi posti dove si andava prima. Il veicolo recreazionale, il camper, ha questa grande possibilità, cioè di consente di poter scoprire e viaggiare in un modo completamente diverso, scoprire luoghi diversi. Noi per esempio in Italia abbiamo una serie di luoghi straordinari, parliamo non so dell'arte, noi abbiamo praticamente un patrimonio artistico che ci invidia tutto il mondo, montagne e mari, però ci sono tanti posti che magari non offrono una ricettività solita, magari meno famosi, che però sono lì solo pronti per essere scoperti. Quindi l'errore che io cercherei di dire, di evitare assolutamente, è quello di non andare nei soliti posti, ecco, cioè cercare di scoprire qualcosa di diverso. Questo in linea generale. Certo. Direttore, io ho un bimbo di 3 anni e una bimba di 1 anno. Sono troppo piccoli per fare una vacanza con me e la mamma in camper, o no? Assolutamente no, perché prima di tutto io sono un camperista di 26 anni e mia figlia è salita per la prima volta in camper con noi, che ne aveva 4 di mesi, e quindi assolutamente. Ma no, anche perché il camper, proprio per le sue caratteristiche, magari non tutti lo sanno, anche se naturalmente credo ormai sia di dominio comune, ma il camper è un veicolo completamente autosufficiente dal punto di vista sia energetico sia per quanto riguarda la riserva idrica e il serbatoio di raccolta. E se vogliamo dirlo in modo molto semplice, o semplicistico se vogliamo, qui non me ne vorranno magari i camperisti più esperti, è come un po' portarsi dietro la piccola casa, quindi con tutte le comodità che si ha. Quindi tutto ciò con un bambino piccolo è estremamente facile, basta pensare, non so, viaggiare in auto con un piccolo bambino che si lamenta per il caldo, per il viaggio, non sapere magari dove cambiarlo, dove portarlo a mangiare, dove, mi scusi se il termine, ma comunque una cosa, dove portarlo magari a fare i propri bisogni o cose di questo genere. Lì si ha la casa presso, il proprio bagno, la propria cucina, il proprio tavolo, insomma, di più di così. Noi ringraziamo Beppe Finello, direttore di Caravan e Camper, mensile in edicola, sempre con le ultime novità sul mercato, l'analisi di tutto ciò che dal punto di vista del prodotto interessa il settore. Grazie ancora, direttore. A questo punto, buone grazie vacanze in camper e a presto. Assolutamente, grazie soltanto. Chi non ci andrà naturalmente. E fin qui ci siamo occupati di chi sogna o programma, progetta le vacanze. Adesso ci occupiamo di chi resta in città e che ha a che fare con la mobilità, con gli spostamenti per lavoro. Insomma, parliamo dei pendolari, figura diffusissima nel nostro paese, non solo nelle grandi città. IBM se ne è occupata a livello globale, pubblicando un interessantissimo studio che vogliamo commentare con il dottor Giovanni Focardi, che è Travel and Transportation Solution Leader di IBM. Buona domenica, dottor Focardi, grazie per averci raggiunto. Buona domenica anche a lei. Voi siete andati a sentire oltre 8.000 automobilisti pendolari nei 5 continenti, Milano in particolare per l'Italia, per sapere come si svolge la loro vita tra auto ed ufficio. Cosa avete scoperto? Ma sostanzialmente, anche se personalmente possiamo avere delle impressioni, era interessante capire quale fosse l'entità del problema, che effettivamente che tipo di impatti abbiamo a seguito del traffico e del fenomeno del pendolarismo nelle nostre città. Era necessario avere, direi, un riscontro oggettivo a livello globale, sia ovviamente nel mondo sviluppato, quindi nell'ovest, nel nord-ovest, quindi in Italia e in Europa, così come nel Nord America, ma eventualmente fare anche dei raffronti con gli altri mercati, con le grandi metropoli dei paesi in via di sviluppo, per vedere se esistono problemi analoghi o sono diversi e capire anche se ci sono delle soluzioni per indirizzarli. Ovviamente questa analisi ha portato dei risultati estremamente interessanti, perché abbiamo visto che sull'intero globo le grandi città hanno significativamente lo stesso tipologia di problemi, cioè i cittadini impiegano tantissimo tempo nel traffico, soprattutto nel traffico congestionato, quindi quello delle grandi città, e soprattutto i pendolari a Milano, come a Mosca, come a New York, evidenziano un peggioramento significativo negli ultimi 3 anni, cioè in generale la tendenza dei problemi dal traffico sta aumentando, non sta migliorando a livello globale, e questo problema limita fortemente lo sviluppo economico delle stesse città, ma crea ovviamente impatti negativi nella salute e soprattutto nella qualità della vita. Qual è la città in assoluto dove si vive peggio il rapporto con auto e lavoro? Allora, diciamo, tutte le città hanno poi degli elementi più o meno diversi, però possiamo dire che in linea di principio le grandi metropoli dei mercati emergenti, quindi consideriamo Pechino, Nuova Delhi, certo, sono sicuramente quelle che hanno i problemi più gravosi, ma anche Mosca. Per esempio Mosca detiene il record nella lunghezza degli ingorghi, cioè sì. I moscoviti dichiarano di rimanere bloccati nel traffico anche per 2 ore e mezzo. Però ogni giorno non deve essere una bella vita. La ricerca ha scoperto anche se e come la guida, in questo caso difficile o addirittura impossibile, come Mosca, influisce in qualche modo sul lavoro e sulla qualità proprio di quello che si fa quotidianamente. Ah. Assolutamente, direi che un elemento fondamentale della ricerca è proprio quello dell'impatto. Diciamo, i cittadini pendolari hanno dichiarato di aver subito gravi impatti negativi proprio sulle performance nel lavoro e nello studio. Quindi in generale possiamo dire che forti impatti da traffico, da congestione da traffico, in effetti limitano non soltanto la qualità della vita, ma proprio la capacità dello sviluppo economico, perché siamo meno efficaci ed efficienti sul lavoro, così come nello studio. Ricordiamoci che gran parte dei pendolari sono studenti, certo, che hanno dichiarato di soffrire negativamente diciamo per la congestione e per il ritardo nel raggiungere il luogo di studio. Significativo però il fatto che negli ultimi 3 anni non c'è stato miglioramento in queste condizioni, anzi addirittura un peggioramento che IBM segnalava. Come mai non c'è sufficiente collaborazione con le istituzioni? Non si riesce a capire l'entità del problema? Ecco, come mai non si riesce a progredire, ma piuttosto si fanno dei passi indietro? Diciamo, a livello tendenziale nel mondo dobbiamo considerare che l'urbanizzazione tende comunque ad aumentare, lo spostamento dalle aree periferiche alle aree rurali verso la città è sempre più significativo. Consideriamo anche che nei paesi in via di sviluppo c'è un grosso aumento della capacità di acquisto di autovetture, quindi in qualche modo il traffico tende a aumentare per questi motivi dovuti sia all'urbanizzazione che allo sviluppo economico. Diciamo, nel mondo occidentale, che ci riguarda sostanzialmente più da vicino, possiamo dire che ci sono dei casi, e che poi ne potremmo anche parlare, in cui il miglioramento c'è stato, ma in linea di massima il problema non è ancora al centro, all'attenzione sia della pubblica amministrazione che delle imprese. O meglio, è sicuramente un problema riconosciuto, ma direi che ancora non ci sono stati sforzi abbastanza coordinati per affrontarlo in modo sistematico. Focardi, dall'estero c'è qualche esempio positivo che può arrivare e che, perché no, può essere anche applicato in Italia? Sicuramente ci sono molti esempi che vengono portati avanti. Vi cito questo, molto interessante, a Singapore. A Singapore abbiamo realizzato uno strumento, chiamiamolo così, Traffic Prediction Tool, che ottenendo i dati di campo, quindi dai GPS all'interno delle vetture, dalle centrali semaforiche, dalle spire, dai sistemi di videosorveglianza, ottiene delle informazioni che consentono di prevedere l'andamento del traffico nei prossimi 90 minuti, con un'affidabilità estremamente elevata, superiore al 95%. Capirete bene che certo, in questo caso è possibile pianificare gli interventi della pubblica amministrazione proprio nel controllo stradale, ma anche fornire indicazioni estremamente attendibili sui percorsi da seguire da parte proprio dell'utenza. Insomma, se dovesse essere applicato in Italia dovremmo seguire non soltanto le previsioni del tempo ma anche quelle del traffico, sperando che siano altrettanto se non più attendibili. Noi ringraziamo Giovanni Focardi, Travel and Transportation Solution Leader di IBM, per la sua presenza questa domenica qui su Radio 24 a Strade e Motori. A presto Focardi, grazie. Ringrazio lei, arrivederci. Lo sapevate che in Italia da qualche anno esiste un mercato dell'auto totalmente alternativo? Lo conosceremo tra poco, meglio in questa seconda parte di Strade e Motori, ma partiamo subito parlando di vacanze. E allora, ve l'avevamo promesso, qualche consiglio per chi, beato lui, si accinge a partire per le vacanze, ma in sicurezza, come è il titolo che abbiamo voluto scegliere per questo nostro spazio di oggi. È un piacere innanzitutto salutare il nostro ospite, l'amministratore delegato di Europa Assistance, Dario Galizioli. Buona domenica e grazie per essere con noi. Grazie a voi per avermi interpellato. L'abbiamo interpellata ovviamente perché chi meglio dell'amministratore delegato di una società che si occupa di sicurezza stradale può così darci anche qualche consiglio, perché no, per affrontare in maniera sicura e serena il viaggio. Siamo nel periodo di partenza per le vacanze, quindi non possiamo non analizzare questo aspetto. Dottor Galizioli, tre cose da fare prima di mettersi in viaggio. Quali sono secondo lei le incombenze che non si possono tralasciare in questi momenti? Ma io prima di mettermi in viaggio, così per un po', forse magari anche per deformazione professionale, mi segnerei i numeri di emergenza. Quindi i primi mi segnerei proprio quelli di polizia e carabinieri, perché sono poi i primi a poter intervenire. Stiamo parlando di viaggi, quindi in caso di necessità, sia per un incidente, che ci auguriamo che non succeda, sia per un guasto. Dopodiché mi segnerei quelli che sono i numeri per casomai dovessi fermarmi, visto che sto partendo in vacanza e non vorrei fermarmi troppo tempo, i numeri del soccorso stradale. Quindi il primo numero che mi segnerei è quello che è il nostro, 803 803. In questo momento, magari così mi faccio una piccola promozione, c'è la possibilità anche di attivare i servizi, quindi sia per i clienti che per i non clienti, via mobile phone. Quindi da metà luglio è attiva per noi anche questa possibilità. Se poi si ha uno smartphone, quindi cioè un iPod, addirittura si può anche scaricare dall'Apple Store l'applicazione. Diventa tutto più facile, quindi sia che sia in Italia che sia all'estero, sia che sia cliente che non sia cliente. Quindi insomma massima importanza a quelli che sono poi gli eventuali recapiti per essere assistiti durante il nostro viaggio. Peraltro si mette in viaggio in questo periodo tanta gente che magari durante l'anno, dottor Galizioli, non è abituata a fare delle lunghe tratte, delle lunghe percorrenze. Anche dal punto di vista psicologico, come dire, bisogna essere preparati, no, per certo, affrontare un viaggio più lungo. Indubbiamente, e quindi fare alcune cose che poi sono relativamente molto semplici, ma che magari omettiamo perché abbiamo la necessità di arrivare in fretta alla destinazione. La prudenza è una condotta di guida adeguata, salvano da molti pericoli. Quindi il consiglio è non guidare mai per oltre 2 ore, specie se non si è abituati, e magari si può anche ridurre. Ci si ferma una breve sosta, ci si sgranchiscono le gambe. Se si è in autostrada, non farlo mai sulla corsia d'emergenza, non è quello il luogo. Andare per suonare di servizio è un'area di sosta, quindi ce ne sono tante, ormai ogni 40 chilometri massimo la si trova da qualsiasi parte, in qualsiasi autostrada lo si faccia. In viabilità ordinaria è più semplice, perché uno svincolo, un bar, un qualsiasi luogo lo si può scegliere. Portarsi acqua in macchina è sempre utile, un po' di acqua fa sempre bene, quindi evitare assolutamente gli altri tipi di bevande che non dissetano e casomai possono provocare qualche problema. Quando si viaggia, questo è un suggerimento che è tanto più utile in autostrada, ma vale sempre, e si deve scendere dall'auto, una cosa da fare è non girare mai le spalle al traffico, quindi guardare sempre il traffico come si muove. In autostrada è indispensabile, qualsiasi cosa si faccia, guardare sempre nella direzione in cui il traffico proviene, così si evitano di essere preso alla sprovvista, di essere preso alla sprovvista, perché poi persone che magari non seguono questi accorgimenti viaggiano anche magari stanchi, e quindi si fanno prendere sbandano, e certo, succede, e quando sbanda lei, se vede, può anche fare qualche cosa. Facendo tutti gli scongiuri del caso, ovviamente. L'auto, però, magari durante il nostro viaggio, nonostante la nostra attenzione messa, perché poi può succedere, va in panne, c'è un problema, c'è un guasto, eccetera. Che cosa fare in questi casi? Ma in questi casi io direi, cerchiamo di evitare di capitare in questa situazione. Non c'è dubbio. Quindi, magari prima del viaggio, una settimana prima, qualche tempo prima, in modo da poter fare delle correzioni, è provare a vedere se, io suggerisco di cambiare la gomma, poi in effetti è soltanto per vedere se c'è, e se non c'è, che cosa c'è in alternativa, per evitare che nel caso dovessimo mai bucare la gomma che abbiamo montato, di trovarci la sorpresa che non abbiamo la scorta. Quindi prima cosa, provare a fare questa operazione. La seconda cosa è provare anche i freni, il che vuol dire anche il controllo della macchina, come si comporta con una brusca frenata. senza andare molto veloci, bastano 50 km all'ora in una strada bella, rettilinea, e così provare a dare un bel colpo di freni guardando dietro che non ci sia nessuno alle nostre spalle, così almeno vediamo il comportamento. Valutiamo, se per caso i freni non funzionano, uno può sempre rivolgersi al meccanico. Il terzo, che sarebbe la cosa più intelligente, senza fare promozione a nessuno, ma un mini check-up, specie per chi usa l'auto poco, così controlla i fluidi, controlla che siano tutti al livello giusto, e così evita delle fermate che sono veramente banali, ma che poi possono capitare. Cioè, questi accorgimenti valgono circa il 13% di fermate tra le gomme, persone che non hanno controllato l'impianto frenante o l'impianto di raffreddamento. E tornando alla domanda che le facevo, cioè se poi succede, se accade qualcosa, qual è la prima cosa da fare? Se per caso accade qualche cosa, se si è in autostrada, ci sono le colonnine di emergenza, quindi basta bigiare quella colonnina, ormai la maggior parte sono foniche e quindi si può dialogare con un operatore, e a questo punto arriverà il soccorso. Dicevo prima, se sei in autostrada, non guardarsi sempre alle spalle, mai pensare, perché si è sulla corsia d'emergenza, di essere sicuro. Non è un luogo sicuro, è un luogo dove bisogna stare il meno possibile. Se si è in viabilità ordinaria, lì non ci sono tipi di recapiti, e quindi l'unica cosa è avere quei numeri che dicevo prima, o il numero della propria assistenza, perché ormai più del 50% delle persone ha comunque una copertura di soccorso stradale, quindi avere sempre quel numero a disposizione e chiamarlo. Se non c'è quel numero, chiamare uno di quelli che sono i numeri pubblici, si chiamano, sono numeri verdi, sono 803, 803, quello che menzionavo prima. Se proprio non si è a disponibilità neanche questo, si chiama il 112 o il 113. Quindi queste sono persone poi che sono tutte in grado di attivare il soccorso in caso di necessità. Noi la ringraziamo Dario Galizioli, che è amministratore e delegato di Rop Assistance. Grazie ancora, buona estate e buon viaggio a questo punto. Grazie a voi e buon viaggio a tutti quegli altri che invece si metteranno in viaggio prima di me. E questo continuo ping pong di questa domenica tra chi è in partenza per le vacanze e chi resta in città, andiamo in redazione a Quattro Ruote, dove ci attende anche questa domenica Mauro Tedeschini, direttore di Quattro Ruote. Buona domenica, direttore. A voi buona domenica. Direttore, il suo blog, che è sempre una miniera per tutti gli appassionati e i lettori di Quattro Ruote, miniera di informazioni e di curiosità, ci dà lo spunto per analizzare un fenomeno che, da quello che mi sembra di capire, è assolutamente in crescita, cioè gli acquisti di auto che sono state confiscate dalla pubblica amministrazione. Di cosa si tratta? Beh, diciamo che a partire dal 2008 è stato introdotto questo provvedimento molto severo, per cui chi viene beccato alla guida con un tasso alcolemico molto alto, parliamo di 1,5 grammi per litro di sangue, quindi veramente ubriaco, se è il proprietario della macchina lui, la macchina viene confiscata e poi immediatamente venduta, con una celerità che ha stupito tutti, perché di solito le lungaggini dello Stato facevano ammuffire queste automobili confiscate in passato. Adesso invece ci sono proprio dei professionisti che si occupano di rivendere queste macchine in tempi brevi, e secondo una statistica che è stata pubblicata proprio dal Sole 24 Ore, nel 2009 sono state vendute addirittura 40.000 macchine con questo sistema, non solo per confisca da alcol, ma anche per droga, mancanza della carta di circolazione, insomma altre infrazioni che vengono ritenute molto gravi. Come si fa nella pratica a acquistare un'auto confiscata? Ma lì la cosa più frequente, più normale, è quella di andare a vedere sui siti delle aste giudiziarie, quelle che sono le aste giudiziarie appunto dedicate alle automobili, che si tengono con una certa regolarità, soprattutto nelle grandi città dove ovviamente queste confische sono più frequenti. Devo dire che finora sono stati dei mercati frequentati soprattutto da operatori professionali, quindi da salonisti che fiutano l'occasione, vanno lì e magari fra 10 macchine che sono poste in vendita vanno a scegliere quella che fa più al caso loro, perché è capitato, noi l'avremmo anche scritto su Quattro Ruote a suo tempo, di automobili tedesche molto recenti che sono state poi vendute addirittura a casa del confiscato, perché la legge prevede anche questa possibilità, ovvero che il magistrato nomini custode della macchina fino al momento della vendita proprio il suo proprietario, per evitare di appesantire lo Stato con dei costi di gestione. Questo è molto interessante. Per quanto riguarda i prezzi, sono convenienti questi acquisti? Ma sì, perché che poi appunto tra pista di aste c'è una base d'asta, dipende ovviamente dal numero delle persone che partecipano, però essendo ancora un procedimento abbastanza poco conosciuto, finora effettivamente si è trattato di prezzi abbastanza competitivi, anche se devo dire che in Italia c'è una certa diffidenza ancora nei privati per questo tipo di acquisti, e proprio sul mio blog parecchie persone hanno detto: ma no, comprare l'auto appartenuta a uno che ha fatto un errore e la macchina gli è stata venduta, francamente non me la sentirei. Quindi, proprio per questo, diciamo, i salonisti, gli operatori professionali sicuramente si sono scrupoli. Non c'è dubbio. Grazie a Mauro Tedeschini, direttore di Quattro Ruote, mensile in edicola con il numero interessantissimo di luglio. Direttore, ci sentiamo settimana prossima, a presto. Senz'altro, buona domenica. E anche per questa settimana Strade e Motori si chiude qui. Grazie per aver viaggiato con noi, grazie a Roberto Scaltritti per averci guidato in regia. Da Massimo Di Scienza l'augurio di un'ottima settimana, noi ci ritroviamo tra 7 giorni.